Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in cui parleremo anche di un anniversario che in realtà si compirà fra due giorni, ma noi non saremo in diretta, e mi riferisco al crack di Lehman Brothers. Perché è importante parlarne? Cade domenica 15 settembre il quinto anniversario del crack di Lehman Brothers, perché, come tutti voi ricorderanno, è l'evento che ha segnato a livello anche mediatico, simbolico, non solo e non tanto solo economico e finanziario, lo scoppio e la parte più drammatica della crisi, che poi non si è spenta, o meglio si è spenta in molti paesi, è ritornata invece sotto un'altra forma in altri paesi dell'Europa del Sud, ma la crisi che scoppiò a fine 2008 e inizio 2009, da tutti ormai definita la più pesante dai tempi del 1929. In realtà non andremo a ripercorrere che cosa la causò, abbiamo fatto decine di puntate su questo, decine di commenti di anche cronaca. Vorremmo capire che cosa è cambiato, perché 5 anni sono un tempo sufficiente per vedere se il legislatore, in questo caso in primo luogo americano, ma anche europeo, ha messo in pratica e in piedi delle reti di protezione, dei vaccini, perché questo non si ripeta più. E che cosa anche è successo ai protagonisti di allora, gli dei dell'Olimpo, come venivano chiamati, tanto si sentivano immortali e superiori, diciamo, alla realtà degli altri esseri umani. E ahimè, devo dirvi subito che molti di loro, e mi riferisco soprattutto ai big della finanza americana, hanno pagato poco, pochissimo. In alcuni casi ci hanno guadagnato, in altri casi tornano in pista. E questo qua, a 2 giorni di distanza da quel rapporto, a mio avviso, molto molto emblematico su come si sia distribuita la ricchezza in America negli ultimi 4 anni di crescita economica, in cui sostanzialmente per l'1% della popolazione vi è stato un aumento del reddito del 30%, e per il 99% della popolazione vi è stato un aumento del reddito di solo lo 0,4%. Anche qui gioca un ruolo pesante la finanza di Wall Street e i bonus, che è tornata ampiamente, bellamente, a ridistribuire dal 2010 in poi, non con quei valori, però sempre valori importanti. Ed è giusto, per non dimenticare, visto che parliamo spesso dei casi di casa nostra, dei malfunzionamenti di casa nostra, anche ricordare che cosa abbia o non abbia fatto in questo caso soprattutto l'amministrazione Obama. Devo dire, così anticipo il mio inutile commento, molto deludente nella capacità di attaccare le lobby di Wall Street, a dimostrazione che le lobby non ci sono solo in Italia. In apertura invece i temi italiani, vorrei ricordare da un lato la vicenda Ilva, di cui parleremo, non tanto sull'Ilva di Taranto quanto sui 1500 posti, o come ha detto l'Ilva con un comunicato, a mio avviso, che poteva essere scritto meglio, i 1500 dipendenti che da oggi sono in libertà niente, sono a spasso, che è una cosa diversa dall'essere in libertà, anche perché l'opposto di libertà è prigionia, e non è che quando uno lavora sia in prigione, ma anzi, dipende poi dal lavoro, per carità, però è la conseguenza del sequestro ordinato, operato dalla Guardia di Finanza, come conseguenza di quanto deciso dai magistrati. La vicenda è molto delicata, perché da sempre abbiamo detto, in merito alla famiglia Riva e alla gestione dell'IVA, vada avanti la magistratura, paghino i Riva se la magistratura dovesse scoprire, e com'è nell'accusa, che i soldi non sono stati usati per, chiamiamolo così in senso generale, per mettere in sicurezza l'impianto di Taranto, bonifiche ambientali, ma non solo. Sarebbe sbagliato che a pagare fossero i lavoratori, che oltre il danno ricevono anche la beffa. Purtroppo è quello che sta avvenendo in questo caso. Capisco benissimo, questa mattina ne ha parlato il ministro Zanonato con il nostro Simone Spezia, che sia un atto tra virgolette dovuto, cioè si vanno a sequestrare i beni equivalenti, però il dato di fatto resta, e cioè a pagare, a stare per strada in questo momento sono 1500 dipendenti che non hanno la benché minima responsabilità per quella che è stata, secondo l'accusa dei magistrati, la gestione della famiglia Riva del gruppo Ilva. Questo deve essere chiaro. Ho capito che c'è la legge, va benissimo, però mi sembra anche assurdo vedere poi con questi chiari di luna e con questo tasso di disoccupazione 1500 persone per strada. Ancora dei temi di casa nostra parleremo in apertura della risposta che il Premier Enrico Letta ha voluto dare all'Unione Europea dopo le preoccupazioni espresse ieri, e nel commentare, volete sapere chi vi sarà a commentare i 5 anni dal crack Lehman, vi sarà il nostro mitico uccellaccio Giulio Sapelli, con cui faremo forse, se ci facciamo, anche un accenno alla situazione politica ed economica di casa nostra. Come vanno le borse? Oggi sostanzialmente piatte, sia Milano che Francoforte che Parigi. Londra meno 0,31%, l'America più 0,37%, bene Mediaset più 3,36%, A2A più 2%, Luxottica più 1,20%, Enel Green Power più 1,1% e Pirelli più 1%, Monte dei Paschi più 1%, Eni più 0,80%. Perde invece la Popolare Emilia Romagna il 2,20%, Fiat l'1,90%, Telecom l'1,70%, Autogrill meno 1,5%, come la Pop Milano e Finmeccanica, meno 1,30% Ferragamo e anche Mediolanum, meno 1% Tenaris. Migliori e peggiori, Cell Therapeutics più 15,70% in questo momento, e sul fronte opposto Invest meno 9,30%. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Intanto partiamo dagli Stati Uniti, o meglio, facciamo una cosa, partiamo dall'India, nel senso che l'India ha rivisto al ribasso di nuovo la sua stima sulla crescita, mentre la Cina sembra aver recuperato il calo, l'India invece continua ad avere una contrazione sulla crescita prevista, contro il 6,5% previsto per il 2013-2014, adesso la revisione porta la crescita del PIL indiano al 5,3%. Dal Giappone arriva una notizia che riguarda l'America, perché Obama avrebbe scelto Lawrence Summers alla presidenza della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve. Ora, visto che ne parleremo anche nella seconda ora, sarebbe un caso veramente singolare, perché Summers, che era consigliere di Bill Clinton, già capo economista della Banca Mondiale, presidente dell'Università di Harvard, è considerato da molti il teorico, oltre che l'artefice, della deregolamentazione finanziaria, quella che cancellò il Glass-Steagall Act, la separazione tra banca d'affari e banca commerciale, tra banca che raccoglie tra i privati, tra i cittadini, e banca che fa investimenti anche rischiosi, ed è lui l'ispiratore dell'eliminazione, diciamo, delle separazioni che esistevano dal 29, ed è considerato ideologicamente, oltre che concretamente, uno degli artefici della bolla che poi è scoppiata 5 anni fa esatti col crack di Lehman Brothers, quella per cui la banca che raccoglieva i risparmi dei cittadini poi con la mano sinistra faceva investimenti rischiosi, faceva la banca d'affari tout court. È lui che ha eliminato una legge che era stata creata proprio per evitare che si ripetesse quello che era accaduto nel 29, e mo lo volete mettere a fare il presidente della Federal Reserve. Io dico, va ben tutto, ma Obama, tra la Siria e Summers, qui veniamo all'Europa, dove il ministro delle finanze tedesco von Schäuble, falco del governo Merkel, ha detto siamo molto cauti sull'unione bancaria, non gli va proprio giù di avere le banche controllate dalla BCE. È un peccato, perché la Germania ha avuto più di un problema con le sue banche, Deutsche Bank, ma soprattutto Commerzbank e le casse di risparmio locali. Però, dice, dovremmo verificare le basi legali della proposta della Commissione. Ancora invece la Banca Centrale Europea ha accolto con favore la proposta della Commissione Europea sul meccanismo unico di fallimento ordinato delle banche, per cui perché la crisi precedente ha dimostrato che il coordinamento tra gli stati era inadeguato. E poi sull'Italia il membro tedesco della Banca Centrale Europea, Jörg Asmussen, ha detto che il problema principale dell'Italia è il limitato potenziale di crescita, vicino allo zero, e l'Italia deve seguire il modello spagnolo e aprire il mercato del lavoro. Sono necessarie riforme strutturali. Il governo Monti ha fatto molto nel campo fiscale, che in questo caso vuol dire nel campo dei conti pubblici, ma in poco tempo, ma le riforme del mercato del lavoro sono solo all'inizio. Occorre varare riforme per liberare il potenziale del mercato del lavoro italiano. E anche il commissario europeo agli affari economici e monetari, entrando all'Eurogruppo, poi domani vi sarà l'Ecofin, ha detto che i dati che arrivano dall'Italia non sono buoni per assicurare un ritorno alla ripresa è essenziale la stabilità politica. Anche il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, era il mitico che attaccammo tempo fa, vabbè dai, lo lasciamo stare un attimo, ha detto: per l'Italia la cosa più importante è la stabilità politica. Come va lo spread italiano nel frattempo? È a 265 punti, al massimo da un mese e mezzo. Il rendimento è al 4,57%, viene confermato che abbiamo purtroppo superato la Spagna, nel senso che siamo a 265 punti, la Spagna a 257 come spread. Ripeto, da un punto di vista dei rendimenti, del costo, non è drammatico, però da un punto di vista politico e di immagine del paese, essere considerati più a rischio della Spagna, quindi con un debito che costa di più della Spagna per essere rifinanziato, non è una bella cosa. E ancora, per quello che riguarda l'Italia, secondo l'osservatorio della Confesercenti, la crisi non allenta la sua presa sul commercio. Tra luglio e agosto hanno aperto 2.656 nuove imprese commerciali, ma hanno chiuso in 5.574, quindi meno 3.000 imprese sostanzialmente commerciali. Questo per quello che riguarda le imprese commerciali che hanno una sede fissa, un negozio, diciamo, un luogo fisico. Sono in aumento i cosiddetti ambulanti, sono 6.400 in più rispetto a un anno fa, sono 180.000 gli ambulanti in Italia, non pochi, ma sono gli unici tra gli esercizi commerciali, chiamiamoli così, tra il mondo del commercio, a crescere, e anche questo a mio avviso è un segnale della crisi, dell'effetto della crisi. Adesso due notizie prima di arrivare al primo approfondimento sull'intervento del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Allora, senza polemica, perché so che in questo periodo qualunque cosa uno dice viene buttata a livello politico, però è come sempre un problema anche di opportunità. Alessandro Alfano, fratello minore del Vice Premier segretario del PDL e ministro dell'interno Angelino Alfano, è stato nominato dirigente di Poste Italiane, più nello specifico di Poste Com, la divisione del gruppo che si occupa dei servizi internet. La cosa che fanno notare molte agenzie e molti siti è che dallo stesso sito di Alessandro Alfano si apprende che, nato nel 75, è stato consulente del Ministero dell'Economia, consulente dell'azienda siciliana Trasporti, responsabile commerciale di Sud Italia Siemens. Nel 2009 ha conseguito una laurea breve in economia, tra l'altro è stato indagato dalla Procura di Palermo insieme a altri 29 studenti con il sospetto di aver pagato per ottenere la promozione in alcuni esami senza averli mai sostenuti. Si è conclusa l'indagine con una archiviazione. Prima di laurearsi nel 2008, Alfano era stato docente del laboratorio di principi e strumenti di marketing che dava diritto a due crediti formativi, quindi un percorso formativo un po' accidentato, ma vabbè, mi sembra sempre che sia un problema di opportunità, ripeto, è come il naso di Cleopatra, l'opportunità di avere il fratello del vice premier, ministro dell'interno, che viene nominato dirigente alle Poste Italiane, giovanissimo come età, visto che le poste italiane sono controllate dal 100% dal Ministero, quindi dal governo stesso, forse non era il caso. Ma soprattutto, cambiando tema, io vorrei sapere dal presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, che magari lunedì invitiamo in trasmissione perché la notizia è arrivata oggi, mancano 58 chilometri per completare la mitica Salerno-Reggio Calabria, ce la ricordiamo, no? Quella, l'eterna incompiuta di questo paese, la A3, quella che ha la maggior parte degli spazi spesso nei nostri aggiornamenti sul traffico. Allora, mancano 58 chilometri. Per i lavori finali, il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci, chiede 3 miliardi di euro. Ora, 3 miliardi di euro per 58 chilometri sono 52 milioni di euro al chilometro, sono 52 mila euro al metro. A me sembrano, io non sono un ingegnere, non lavoro all'ANAS, a me sembrano un po' tantini. Faccio notare che in Italia il costo di un'autostrada in media è di 32 milioni al chilometro, che già sono tantissimi, qui sarebbero 52, cioè qui sarebbero il doppio del costo medio in Italia. Pensate che in Spagna sono 14 milioni al chilometro, in Francia 15 milioni. È vero che pesano i costi, anche le caratteristiche del territorio, però ho capito tutto, ma insomma già l'Italia ha una media a chilometro di costi doppia rispetto alla Spagna e rispetto alla Francia. Non è che in Francia non ci siano i monti, è vero che c'è il Midi, non è che la Spagna sia solo la Sierra, però al di là di questo già da noi costa il doppio, Ciucci la fa pagare praticamente il doppio, quasi quella italiana, quindi siamo a quattro volte quasi una media autostradale francese e spagnola, mi sembra eccessivo, quattro volte per finire sta cavolo di essere Reggio Calabria. La cosa interessante è che per l'anno scorso, per la stessa tratta, Ciucci aveva chiesto 2 miliardi e mezzo di euro, anche qui una cifra altissima. Ora vorremmo sapere, e per questo lo inviteremmo, chiedo agli assistenti già di prendere nota, vorremmo sapere perché l'anno scorso erano 2 miliardi e mezzo, quest'anno 3 miliardi e comunque il doppio della media italiana e quasi quattro volte la media di Francia e Spagna. Le domande forse risolte di questo paese, o forse risolte, ma non lo so, non lo posso dire comunque. ...349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora apriamo con la risposta che ha dato oggi il Premier Letta alle preoccupazioni di ieri di Bruxelles, che ha detto: con i pagamenti che state facendo la pubblica amministrazione, che la pubblica amministrazione sta facendo alle imprese, parte, piccola parte ancora, sono in tutto 15 miliardi quelli stanziati, 7 quelli effettivamente erogati, dei 100 miliardi che la pubblica amministrazione deve alle imprese italiane, al 70% è sanità, sono le ASL, ma non solo, con quei pagamenti più l'aver eliminato la seconda rata dell'IMU e comunque l'IMU sulla prima casa, che sono altri 4 miliardi, rischiate di non raggiungere l'obiettivo che avevate promesso, ossia il deficit sotto il 3%. Faccio notare, obiettivo grazie al quale tre mesi fa, prima dell'estate, l'Italia ha avuto eliminata la procedura di infrazione per deficit eccessivo, perché i conti erano in ordine. Allora, questa è la preoccupazione di ieri di Bruxelles e oggi la risposta del Premier Enrico Letta. Letta era in visita al cantiere di Expo 2015, quindi poco vicino dalla sede qui del Sole 24 Ore a Ropero, e ha rassicurato: non sforeremo il 3%. La stabilità vuol dire fiducia sui mercati internazionali, vuol dire tassi che scendono e spread che si abbassa. Se i tassi scendono, lo spread si abbassa, il nostro costo del debito pubblico diventa più basso e quindi stiamo dentro i parametri. Se viceversa, per colpa dell'instabilità politica, i tassi si alzano, lo spread non scende e dobbiamo pagare di più, allora vuol dire che dovremmo tener conto di una situazione che si modificherà. Io non sono preoccupato. mi avete sempre sentito fare ragionamenti molto molto convinti sul fatto che buonsenso e serenità alla fine prevarranno, però ce n'è bisogno. L'allarme del commissario Rehn è un allarme legato per l'appunto al tema instabilità che fa salire i tassi di interesse e quindi i costi sul debito del nostro bilancio. Sono convinto che se siamo tutti all'altezza della sfida questo non accadrà, quindi i tassi continueranno a scendere e quindi non avremo il problema della fine d'anno con uno sforamento del 3%. L'impegno che io ho preso nel discorso di fiducia era per tenere i conti sotto il 3%, terremo i conti sotto il 3%, il come farli dipende da questa capacità per l'appunto di mantenere i tassi di interesse in discesa e quindi avere un costo sul debito che ci consenta di stare sotto il 3% senza dover fare interventi straordinari. Così il Premier Letta, vedo alcuni messaggi al 349-238-6666 che dicono ma insomma una buona notizia, ci sono troppe notizie negative. Ragazzi mettetevi d'accordo perché se diciamo che si intravede la ripresa, che qualche segnale di c'è, che la recessione ha fermato la sua caduta, mi scrivete, giustamente, ci scrivete ma lei dove vive, qui va tutto male, abbiamo sentito ieri Piccinelli con il suo indice dire si è di nuovo fermato tutto e dite che raccontiamo balle perché vogliamo vedere tutto quanto rosa. Se raccontiamo le notizie che vediamo dite che siamo troppo negativi. Facciamo una bella cosa, noi continuiamo a dare le notizie che leggiamo e uno le prende per negative o positive, altro non possiamo fare, né dire che i ristoranti sono tutti pieni, né dire che ormai praticamente l'Italia farà il crack. Ma dove era il crack che Grillo aveva previsto? Non era a settembre, doveva scoppiare quest'anno, questo mese, il crack finanziario dell'Italia. No, dico perché qua si va dai ristoranti sempre pieni al crack finanziario. Cerchiamo di stare sulle notizie, leggere i dati, capirli in primo luogo, interpretarli se riusciamo, commentarli se proprio ce la facciamo. Il debito è un incubo e si mangia il futuro, sempre il Premier Enrico Letta che poi si è spostato a Torino per la settimana sociale dei cattolici italiani. Il debito è una parola che torna nelle nostre vite, per noi italiani è una parola molto profonda, per chi governa il paese in questo momento è diciamo un incubo, ecco, mettiamola così. Quel debito fatto dovremo pagarlo e dovremo continuare a tenerlo in vita. E per pagare i debiti bisogna essere credibili, se non si è credibili i debiti non si pagano, se non si è credibili i debiti non si pagano nel senso che nessuno ci compra il debito e se nessuno ci compra il debito non ce la facciamo e la credibilità passa attraverso la serietà dei comportamenti, non è una questione di comportamenti individuali, è una questione di comportamenti in quanto comunità nazionale che si è presa degli impegni e questi impegni devono essere mantenuti. Questi mesi che abbiamo davanti sono mesi che saranno molto importanti per la credibilità e la serietà del nostro Paese. Mantenere gli impegni vuol dire essere, che è quello che faremo rispetto ai nostri debiti, vuol dire essere in grado di sapere che i debiti vanno ripagati, ma che per essere ripagati bisogna essere credibili, bisogna essere seri. Non bisogna essere un Paese che dà l'idea ogni giorno di essere sull'orlo di un vulcano in ebollizione. Evidentemente Letta parlava di un paese immaginario, di un altro paese, perché in questo periodo proprio noi stiamo dando questa immagine, mi dispiace citare lo spread, il sorpasso spagnolo, o meglio, sorpasso italiano, quanto a livello dello spread è lì a dimostrarlo, no? L'Europa si chiede ma il governo Letta quanto durerà, veramente se lo chiedono anche gli italiani oltre che l'Europa e soprattutto quando si riuscirà ad avere un po' di, ripeto, la stabilità fine a se stessa non vuol dire nulla, stabilità senza un progetto si chiama inerzia, si chiama immobilità, ma stabilità per poi riuscire a fare alcune riforme, quella è un'altra cosa. Per esempio oggi è arrivata la bozza sul decreto fare due. Allora, quando io leggo bozza di un decreto, capisci qua, di sicuro c'è solo che una bozza. Però dentro questa bozza, che era già prevista nel decreto fare 1, era già stata anticipata dal Premier Letta, ci sono cose importantissime per le imprese. Per esempio, le imprese potranno avere una dilazione nel pagamento delle tasse se hanno crediti certificati verso la pubblica amministrazione, che è una cosa che si dice da tempo, ma scusami, se lo Stato o la AS, lo Stato, la Regione, mi deve 1 milione di euro, fammeli scontare dalle tasse che devo pagare allo Stato, non è un principio così difficile. Poi arriva Equitalia e me ne chiede 500.000, dico guarda, visto che me ne devi tu 1 milione, facciamo che me ne dai mezzo e siamo pari patta. Adesso la faccio un po' breve, ma è un meccanismo di civiltà nel rapporto cittadino-fisco. Io aspetto ancora che tu mi paghi e intanto mi chiedi i soldi delle tasse? No, pagami o scaricameli dalle tasse. Questo è previsto nella bozza del Fare 2. E ancora dal 2014 dovrebbe salire da 700.000 euro a 1 milione la soglia di compensazione fra debiti e crediti fiscali, che viene ulteriormente, quello che ho appena spiegato, che viene ulteriormente elevata a 2 milioni nel caso di società con bilanci certificati, a 4 milioni nel caso di società quotate. Comunque anche 1 milione con questo giochetto, il fisco te ne chiede 2, ma uno lo aspetti dallo Stato, a questo punto paghi solo 1 milione di tasse. Beh, è già qualcosa, no? I canali di finanziamento per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, dovrebbero essere agevolati sotto il profilo fiscale. È prevista nella bozza del decreto l'eliminazione di alcuni balzelli legati all'accensione di garanzie di varia natura sui contratti di finanziamento medio e lungo termine. È prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai fondi immobiliari chiusi. Insomma, tutte cose che possono sembrare noiose a raccontarle così, ma sono fondamentali perché agevolano un po' l'attività di impresa da un punto di vista della pressione fiscale e del rapporto con lo Stato. Ora, mi rendo conto che non sia così sexy come parlare, diciamo, di vicende giudiziarie varie, ma io adesso voglio vedere quanto ci mettono a far passare la bozza del decreto Fare 2 a legge vera e propria, perché queste sono le cose che noi chiediamo e aspettiamo. Lo so, siamo un po' prosaici, un po' bassi, non ci occupiamo di alta politica, ma questo è quello che migliaia di piccole imprese si aspettano, almeno un segnale di rispetto, soprattutto quando lo Stato non ti ha rispettato per anni non pagandoti. Comunque, meteo, pubblicità e poi iniziamo con la vicenda, o continuiamo anzi con la vicenda Ilva, anche perché da un lato ci sono buoni segnali che arrivano dall'industria metalmeccanica, però c'è un allarme lanciato dalla stessa Federmeccanica, perché a fronte di una produzione che è cresciuta nel secondo trimestre dello 0,7%, Federmeccanica dice: attenzione, con quello che sta capitando al gruppo Riva siamo molto preoccupati sia in termini di forniture di acciaio che di prezzi dell'acciaio stesso, che stanno già tendendo ad aumentare. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, poco fa il gruppo Riva ha diffuso un comunicato che ha detto: lo stop degli impianti di Riva Acciaio è un atto dovuto, non una scelta aziendale, è dovuto alla tempestiva esecuzione del provvedimento del GIP che ordinando il sequestro ha sottratto alla proprietà la libera disponibilità degli impianti e dei saldi attivi di conto corrente. Cos'era successo? Praticamente la Guardia di Finanza, su ordine della magistratura, sequestra l'equivalente di quasi 1 miliardo di beni di 13 società del gruppo Riva. Non c'entra l'Ilva di Taranto, sono altre società. Come atto conseguente all'accusa del PM c'è che i Riva non hanno utilizzato i soldi per rimettere a posto in sicurezza lo stabilimento di Taranto dell'Ilva, creando un danno ambientale, e allora gli sequestro i beni. Questa è la prima parte. Seconda parte, ieri il gruppo Riva dice: bene, a questo punto 1500 dipendenti sono liberi, cioè sono a spasso, perché io non ho più la disponibilità di cassa e gli saldi attivi in conto corrente. Questa mattina ne ha parlato il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, ospite di Simone Spezia a Radio 24, quindi annunciando tra l'altro che il prossimo lunedì incontrerà il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante. ha detto Zanonato comunque che l'ipotesi su cui stiamo lavorando di verificare nei tribunali se sia possibile un sequestro che non blocchi le attività produttive. Io non lo so, non faccio il giudice, non ho competenze in questa materia, mi chiedo semplicemente se non sia possibile, vista l'ipotesi accusatoria di PM, sequestrare 1 miliardo di beni ai Riva senza bloccare l'attività produttiva. Non lo so, me lo chiedo. Comunque, Zanonato. È un tipico caso in cui si può intervenire con la cassa integrazione, perché queste aziende non sono aziende decotte, al contrario sono aziende vive, dinamiche. Sarebbe ben più drammatico se il prodotto non avesse più un mercato. Sono dell'avviso che i magistrati nei sequestri delle proprietà devono svolgere fino in fondo questa attività, e che invece il punto di delicatezza che si devono eventualmente porre è non fare dei sequestri su dei beni strumentali, compreso il denaro, che intervengono invece nel funzionamento dell'azienda, per due motivi. Primo, perché si produce il danno di cui stiamo paventando e di cui abbiamo una forte preoccupazione: stop dell'attività produttiva e i lavoratori che non prendono lo stipendio. Secondo, perché lo stesso patrimonio si impoverisce. Un'azienda, se funziona, vale 100, se è ferma, vale enormemente di meno. E poi il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, sempre ai nostri microfoni, ha detto: non c'è nessuna rappresaglia da parte di Riva, ma l'impossibilità di proseguire senza poter disporre dei mezzi di pagamento. Non c'è nessuna rappresaglia, c'è l'assoluta impossibilità di proseguire nell'attività industriale non avendo disponibilità liquide. I fornitori di rottame chiedono a Riva il pagamento cash, i fornitori di energia elettrica non vogliono più fornire un'azienda che non ha mezzi di pagamento per pagarli. Io ho drammatizzato la situazione, ma giustamente, dicendo che un provvedimento del genere rischia di portare le aziende dei Riva all'insolvenza, al fallimento. Sì, io non capisco un po' una cosa dal punto di vista, in questo caso economico: se tu blocchi le attività peggiora il tuo conto economico, quindi sarai sempre meno in grado di pagare i soldi che devi, che non metto in dubbio la correttezza dell'azione dei magistrati, ci mancherebbe. L'accusa è molto grave, molto importante, di non aver utilizzato i soldi per mettere in sicurezza, evitando il danno ambientale e chiaramente anche umano, nella zona dell'Ilva di Taranto. E se hanno sbagliato i Riva, sbagliato, occultato, devono pagare come tutti i cittadini di questa Repubblica, nello stesso identico modo, la legge uguale per tutti. Mi chiedo però se bloccando l'attività tu non rischi di veramente far saltare per aria il gruppo e creare un danno ulteriore. Adesso non abbiamo i soldi perché non stiamo nemmeno fatturando, non stiamo svolgendo l'attività, e quindi a questo punto chiuderemo altri stabilimenti, altri impianti. Cioè, vorrei evitare così la deriva in qualche modo parossistica di questa vicenda, perché poi stanno pagando per ora soprattutto i dipendenti. Su questo è molto chiaro, a dimostrazione che forse c'è del vero, anche il rappresentante della FIOM, Davide Mollo, a Lesegno, vicino a Cuneo, perché questi stabilimenti non sono quelli di Taranto, sono altre 13 società riconducibili alla famiglia Riva, che sono in Piemonte, in Veneto, dovunque in Italia. L'ha raggiunto la nostra Valeria De Rosa, perché questa mattina i lavoratori alle 5 di mattina si sono presentati davanti allo stabilimento. Immediatamente, come prima azione, ieri nell'immediato pomeriggio ci siamo recati davanti allo stabilimento per informare, fuori dai cancelli, perché i cancelli ormai venivano chiusi, tutti i lavoratori di cosa stava capitando. E di primo acchito abbiamo fatto sì che tutti i lavoratori, nelle tornistiche dovute, si presentassero ai cancelli, perché è chiaro che i lavoratori davano la loro disponibilità a lavorare. Quindi avevamo anche timore di una mossa aziendale che si nascondesse dietro al fatto che i lavoratori poi non si sono presentati previo una comunicazione che comunque non è ufficiale, e pertanto si potesse appellare al fatto che quei giorni lì non hanno retribuzione, non hanno copertura. Volevo capire se stamattina però si è fatto vivo qualcuno della dirigenza. No, assolutamente. La dirigenza questa mattina non sono stati nemmeno più ammessi all'interno dello stabilimento. Quindi situazione delicatissima e che potrebbe avere anche un altro risvolto. Non ho capito perché il Chiedovenia, il file, sia stato troncato in questo modo. Abbiamo problemi ogni tanto con il sistema nuovo, chiedo scusa agli ascoltatori, con il sistema che stiamo adottando in radio, e ogni tanto i file vengono tagliati. Però detto questo, e mi dispiace di nuovo, c'è un altro cotè che rischia di essere altrettanto grave, e cioè il gruppo Riva produce acciaio e Federmeccanica, proprio nel momento in cui nota dei segnali positivi nel secondo trimestre nella produzione metalmeccanica italiana, teme fortemente che cosa? Lo chiedo al vicepresidente e responsabile economico di Federmeccanica, Roberto Maglione, buonasera. Sì, buonasera, ho sentito tutta, ho seguito la trasmissione, effettivamente c'è una preoccupazione non soltanto per le imprese del gruppo Riva in sé, che comunque rappresentano un'importante parte dell'industria italiana, ma anche proprio, come diceva, per i riflessi, perché è chiaro che le forniture di acciaio, venendo a mancare o a ridursi, comportano un aumento dei prezzi, che rende meno competitive sul settore dell'export tutta una serie di comparti che non sono soltanto quello siderurgico e metallurgico in sé, ma anche tutta una serie di comparti ovviamente che utilizzano l'acciaio come fornitura, che proprio in questo momento, quando si vedono i primi elementi di ripresa soprattutto dell'export e anche in Europa, potrebbero andare a detrimento della nostra capacità competitiva. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, il vicepresidente di Federmeccanica, appunto 60.000 imprese, 1.600.000 addetti, 100 miliardi di euro il valore della produzione. Vorrei capire quanto, diciamo, prima che si scarichi l'effetto di un caro acciaio sulle vostre produzioni, che tempi ci dovranno essere, cioè per quanto reggete prima di avere un danno vero? Ma guardi, secondo me la previsione è tra i 3 e i 6 mesi, e poi si vedranno degli impatti sinceramente pesanti. Quello che le volevo dire, proprio per l'importanza del settore che io in parte rappresento e di cui faccio parte peraltro, è quello che dalle rilevazioni di Federmeccanica, che è l'associazione delle aziende metalmeccaniche italiane, si incominciano a intravedere alcuni primi segnali di inversione del ciclo recessivo che le ricordo è da 2 anni che in qualche modo contrasta lo sviluppo dell'economia italiana. Grazie. Quindi, per ricordarmelo, ma purtroppo è da 2 anni che parliamo ogni giorno, per cui sappiamo purtroppo che venite anche voi da dati congiunturali molto molto pesanti, e a questo proposito il più 0,7% che avete fatto come industria metalmeccanica nel secondo trimestre è il primo trimestre positivo da sette trimestri, no? Sono praticamente... Esattamente, è il primo dato congiunturale, perché lo 0,7 è il dato dell'incremento del secondo trimestre 2013 rispetto al primo trimestre 2013, e finalmente il primo dato congiunturale positivo. Ecco, mi dica una cosa, se dovesse essere mantenuto, questo vuol dire che potrà crescere anche nell'anno prossimo l'occupazione, oppure voi crescerete, se tutto va bene, come fatturati, ordinativi, ma mantenendo i livelli occupazionali invariati, cioè la cosiddetta jobless recovery, la ripresa senza creazione di posti di lavoro? Ma guardi, la ripresa, per essere veramente una ripresa, deve assolutamente durare almeno per altri 2 trimestri, quindi evidentemente prima di parlare di inversione di ciclo ci vuole ancora un po'. Per riassorbire tutto quello che si è perso in termini occupazionali, i tempi saranno ancora molto lunghi. È chiaro che se si proseguirà con il pagamento da parte della pubblica amministrazione dei debiti contratti nei confronti del sistema imprenditoriale, se si perseguirà la politica di riduzione del cuneo fiscale e vi saranno anche agevolazioni nel credito, soprattutto le piccole e medie imprese, gli effetti, i primi effetti sull'occupazione si potranno anche risentire nel corso del primo semestre 2014. Primo semestre 2014, noi ce l'auguriamo, perché voi siete una delle quattro gambe del tavolo del Made in Italy, la metà meccanica. Torneremo anche a parlare di questo appena avremo temi più classici, e quindi in bocca al lupo a voi, ma soprattutto al 1.600.000 addetti dell'industria metalmeccanica italiana. Grazie al vicepresidente Roberto Maglione. Va bene, grazie, arrivederci. È un mondo difficile e vita intensa. Ma lei, Barisoni, non si stanca mai di dire cavolate? Cosa vuole che importi se chiude un'acciaieria? No, non mi stanco mai, sono riposatissimo oggi. Chiara Di Cristoforo, buonasera. Buonasera. Radio Colli sulle 24 ore per l'appuntamento di Borsa. Allora, oggi possiamo dire che chiudiamo la settimana, no? Tranquilli, tranquilli. Più 0,19 Parigi, più 0,18 Francoforte, più 0,14 Milano. Meno 0,07, eccola lì Londra, ma lo fanno apposta, e Dow Jones più 0,42%, due titoli però, Mediaset più 3,70% è il migliore oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione, mentre Fiat ha perso, è arrivato a perdere anche il 3%, poi ha ritracciato meno 1,5%. Sì, partiamo da Mediaset, come dicevi tu. Allora, c'è da dire che Mediaset è un titolo super volatile, lo abbiamo visto, segue praticamente le vicende giudiziarie e politiche di Silvio Berlusconi, quindi è un titolo su cui fare un po' di attenzione in questa fase. Dall'inizio dell'anno comunque, per dare un'idea di come sta andando, ha praticamente raddoppiato il suo valore, segnando la performance migliore di tutto il listino principale milanese, ha fatto più 97%. Più 97% Mediaset da inizio anno. Va detto che era scesa a livelli, perché so già la lettura è tutta politica, assolutamente, va detto sì, che era scesa a livelli bassissimi. E poi c'è anche la componente legata alle vicende personali di Silvio Berlusconi, questo è innegabile, però attenzione, c'è stato anche un miglioramento nelle prospettive sulla raccolta pubblicitaria ed era ai minimi storici, lo dico per essere precisi e non ideologici. Vai avanti, Chiara. Sì, oggi è anche legato poi a un'altra cosa, a un report positivo, diciamo che è stato un po' lo spunto, no? Come succede spesso quando questi titoli vivono periodi di volatilità. Il report stavolta era quello di Nomura, che quindi sulla base di giudizi sui fondamentali e non su motivazioni politiche ha alzato sia il prezzo obiettivo da 2 a 3,3 euro che il giudizio, prima era ridurre, ora è neutrale. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'appuntamento, l'approfondimento di Borsa e poi passare ai 5 anni dal crack di Lehman Brothers per vedere che cosa è cambiato e che fine hanno fatto i protagonisti di allora, se hanno pagato. Con Chiara Di Cristoforo, dopo aver commentato da un lato Fiat e dall'altro Mediaset, oggi debole anche Telecom Italia, Chiara. Sì, Telecom Italia oggi ha visto una giornata in calo, è stato uno dei titoli peggiori del listino, in realtà non ci sono novità, si fanno ipotesi sul riassetto, sul piano che potrebbe arrivare in consiglio il 19 settembre, si sta cercando una soluzione al riassetto azionario che seguirà l'uscita di alcuni soci che fanno parte di Telco, cioè Telefonica, che vorrebbe che i vari soci si facessero, come dire, carico di una parte dell'aumento di capitale. Non tutti sono d'accordo, praticamente tutte le opzioni sono aperte. Intanto però il mercato, che a giorni alterni premia o boccia il titolo, che è comunque su livelli abbastanza bassi, teme soprattutto per un downgrade sul debito che potrebbe arrivare a breve a questo punto. E poi è da segnalare che a borsa chiusa è arrivata la notizia delle dimissioni di Catania da Telecom dopo un'indagine per insider trading. Ancora sì, fatto bene a dare questa notizia arrivata a mercato chiuso. Ultimo titolo, A2A più 2%, è sui massimi dell'anno. Tra l'altro qui c'è anche un'iniziativa del governo che dice le municipalizzate dopo 2 anni in rosso, a quel punto non sono più municipalizzate, le mettiamo sul mercato, per essere un po' brutali. Sì, esatto, c'è questo, c'è questo incontro che c'è stato 2 giorni fa a Roma tra il Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato con i vertici delle principali ex municipalizzate, tra cui quelli di A2A, ma anche quelli di IREN, di ERA, si è ricominciato a parlare anche di aggregazioni tra le ex municipalizzate. Quando c'era Passera, lo sviluppo economico, si parlava della creazione della cosiddetta grande utility italiana, poi caduto il governo non se ne è parlato più, ma questo incontro ha fatto di nuovo ricominciare un po' le scommesse in borsa. E c'è da dire che c'è un'altra municipalizzata che è salita del 40% nell'ultimo mese, oggi in realtà ha perso il 5%, è ACSM Agam, che è l'unione delle due municipalizzate di Como e di Monza, e anche per lei si parla di possibili aggregazioni, quindi è un settore da tenere sicuramente sotto controllo in questo periodo sul mercato. In una battuta, i migliori e peggiori: Cell Therapeutics più 14,70, Seat più 6,25, Borgo Sesia più 6,20, TXT più 5,80, TAS più 5,70, CHL più 5,30, fronte opposto invece Camfin meno 4,40%. Qui gli analisti pensano che vi possa essere un ritocco al prezzo dell'OPA? Sì, dopo la decisione della Consob comunicata ieri hanno fatto un po' di calcoli, l'incremento massimo del prezzo dovrebbe essere a 0,9 euro, quindi dopo che ieri il titolo ha fatto più 8%, oggi, come dire, anche il mercato ha fatto due conti e hanno prevalso le vendite, perché se il massimo è 0,9 non è che convenga così tanto comprare. E adesso infatti il titolo è chiuso a 0,83 per la società che controlla il gruppo Pirelli. Grazie a Chiara Di Cristoforo e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore. E noi adesso torniamo indietro, tra virgolette, di 5 anni, ma attenzione, tutte le notizie che daremo riguardano in realtà il presente, non il passato. Non è una puntata di Discovery Channel, con massimo rispetto per Discovery Channel. I have a dream that one day on the red hills of Troy, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. We're following tonight. This has truly been a manic Monday on Wall Street. There's the bankruptcy of Lehman Brothers, the sale of Merrill Lynch to Bank of America, and word of trouble with the world's largest insurance company, American International Group. The stock market suffered one of its worst days in years. Era per la precisione il 15 settembre del 2008, quando avete appena sentito uno dei notiziari americani che annunciavano non solo il crack, la chiusura, gli impiegati con gli scatoloni di Lehman Brothers, una delle stelle nel firmamento, chiamiamolo così, della finanza di Wall Street, ma anche le difficoltà di un altro gruppo che poi fu salvato brutalmente dallo Stato, AIG. Oggi ha ricordato l'anniversario, chiamiamolo così, anche il commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn al termine dell'Eurogruppo che si è tenuto questa mattina. Nel quinto anniversario del crack Lehman Brothers, che ha fatto sprofondare l'economia mondiale nella peggiore crisi dalla Seconda Guerra Mondiale, sia la regolamentazione che la supervisione sono state rafforzate in modo significativo. Chi avrebbe immaginato nel 2008 che avremmo trovato un accordo riguardo a un meccanismo unico di sorveglianza? E chi avrebbe immaginato a quel tempo che avremmo intrapreso riforme per rafforzare la governance economica della zona euro, come invece abbiamo fatto? Ma non dobbiamo mai abbassare la guardia. I regolatori e le autorità, sia a livello europeo che mondiale, come il G20 e il Fondo Monetario Internazionale, devono restare vigili. In questo modo l'esperienza della grande crisi finanziaria del settembre 2008 può rimanere nel posto che le appartiene, ossia nei libri di storia. Eh sì, ma ce n'è di strada da fare. Prima di salutare, sento quest'aria sopra di me, questo uccellaccio che di nuovo è tornato dalle vacanze, io devo mandare, anche perché lo chiedete a gran voce, un passaggio, in realtà è l'unione di due passaggi, di Wall Street 2, Gordon Gekko, che dopo aver passato 8 anni di carcere riemerge e si becca un'America che è anche peggio di quello che va lasciata quanto a speculazione, rischi e sciacallaggi vari, e pubblica un libro nel 2008 in cui avverte dei rischi dell'imminente crack della finanza, presenta il libro in una affollata alla universitaria, secondo me uno dei passaggi più belli del film di Oliver Stone, Wall Street 2, due passaggi che la spiegano secondo me abbastanza bene, le origini e lo sviluppo di quella crisi. E hanno inventato tante belle siglette per mascherare il grande debito, CMO, CDO, SIU, ABS. Scommetto che ci sono al massimo 75 persone in tutto il mondo che sanno che cosa sono. Beh, adesso ve lo dico io. Sono solo delle ADM, armi di distruzione di massa. Mentre ero dentro, ecco che cosa sono. Mi è sembrato che l'avidità sia diventata ancora più avida e con l'aggiunta di un pizzico di invidia. I signori degli hedge fund se ne andavano a casa con 50-100 milioni di dollari l'anno. Così anche il banchiere si guarda intorno e dice: mica sono l'ultimo imbecille. E comincia a usare la leva finanziaria sugli interessi fino a 40-50 a 1. Con i vostri soldi. Non con i suoi, con i vostri. E glielo lasciano fare. Tanto siete voi che avete fatto il mutuo. E il bello della faccenda è che nessuno è responsabile. Il fatto è che crediamo tutti alla stessa favola. L'anno scorso, signore e signori, il 40% di tutti i profitti societari americani era costituito da proventi finanziari, non dalla produzione o da qualcosa che avesse comunque a che fare con le necessità delle persone. La verità è che ci siamo tutti dentro. Banche, consumatori, tutti muoviamo la giostra dei soldi. Prendiamo un dollaro, lo pompiamo di steroidi e lo chiamiamo leva finanziaria. La madre di ogni male di oggi è la speculazione. Negli ultimi due anni hanno venduto derivati, oltre ai subprime, swap, future, qualunque spazzatura. Sapevano che l'illusione dei mutui avrebbe fatto crollare il mercato. E quando il crollo si è avverato, si sono fatti comprare i titoli tossici dal governo senza perdere un dollaro. Questo è l'impero del male, io ero un dilettante. Io sono una mezza tacca rispetto a loro, ragazzo. Il sistema è insolvente, nessuno sa cosa fare dopo, eccetto ripetere la follia fino a che non scoppia la prossima bolla. E sarà quella vera, quella grossa, come la storia dei tulipani, ricordi? Così un Gordon Gekko in versione, diciamo, demi vierge, mezza vergine. Giulio Sapelli è tornato, ha passato le buone vacanze? Benissimo, ma non sono demi vierge io. No, lei non è demi, cioè? Non è demi de niente, Sapelli. Non sono demi de nulla. Però senta, no, la stazza, diciamo, accademica. Senta una cosa, poi andiamo sul traffico e le faccio fare l'analisi. Ma è cambiato qualcosa? Perché io ho fatto ascoltare alcuni passaggi di Wall Street 2, le riforme, poi arriviamo ai nomi, non so, io vedo che in America adesso è uscita un'agenzia per cui il presidente della Federal Reserve non sarà nominato la prossima settimana, ma il nome più forte in questo momento è colui il quale è considerato il padre della creazione di questa bolla, cioè Larry Summers, che capo economico di Obama, ma già di Clinton, è l'uomo che ha eliminato di fatto il Glass-Steagall Act, cioè quella legge dal 29 che impediva a una banca commerciale di essere anche banca d'affari, cioè se raccogli i soldi dei privati cittadini non puoi essere una banca altamente speculativa, la dico in maniera un po' approssimativa. Non le sembra paradossale che questo rischi di diventare il numero uno della banca centrale americana? Ma per nulla, e devo dire che mi fa veramente stupore, anche un po' pena, quello di Ren, no? Perché mi chiedo se quello che dicono lo dicono credendoci veramente. Probabilmente sì. Dice che la situazione è migliorata, la crisi sarà sui libri di storia, ma accidenti, la situazione è peggiorata. Perché vede, hanno fatto l'unione bancaria in Europa. Hanno cercato di trovare un comune accordo sui problemi della regolazione tra l'Europa e gli Stati Uniti. Addirittura l'Inghilterra se n'è andata ancora più dall'Europa perché non era d'accordo su queste regolazioni, ma di fatto non hanno fatto nulla se non varare una legge come il Dodd-Frank Act, che dovrebbe regolamentare alcune forme di separazione tra affari rischiosi e affari commerciali, così come sinteticamente ricordava lei, ma vorrei dire agli ascoltatori che vede il Glass-Steagall Act, che salvò gli Stati Uniti e il mondo dalla crisi, era un documento di 26 pagine, dicasi 26, 27 con la copertina. Il Dodd-Frank Act, di cui si aspetta ancora adesso la creazione del regolamento, è un documento di 6.800 pagine, perché i lobbisti delle grandi banche d'affari, che come dice giustamente lei, fanno le speculazioni con i soldi del povero depositante, hanno creato questo mostro, e che si parla già di un regolamento che è lungo 10.000 pagine. Quindi vuol dire che non sarà possibile regolamentare nulla. E come ricordava giustamente Larry Summers, è la persona più deleteria che sia apparsa con Clinton e con Tony Blair sulla faccia della terra, perché sono quelli che hanno deregolamentato i mercati finanziari, L'unica verità su Blair l'ha detto un film straordinario che racconta la sua vita, quello in cui c'è quel povero uomo che avrebbe dovuto scrivere la sua biografia, ma che poi muore ammazzato, non dico da chi. E quindi cosa vuole? Ci sono notizie, rumors, che vengono dalle alte banche d'affari e dai nuclei più segreti, gli scantinati di Bruxelles, che si sta preparando addirittura una sorta di macro regolazione per cui si imporrà a tutte le banche europee la fine di che hanno fatto le banche cipriote, cioè se le banche vanno in rovina non ci saranno più i salvataggi dello Stato, ma dovranno pagare di tasca loro i depositanti e gli azionisti. Lei capisce molto bene cosa si sta preparando. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il nostro sogno di oggi è non dover leggere le notizie che sto per leggere. Che fine hanno fatto i responsabili, i protagonisti, gli dei dell'Olimpo, del più grande crack finanziario dal 29? Allora, Dick Fold, il gorilla, ex presidente numero uno di Lehman Brothers, ha incassato 34 milioni di dollari nel 2007, 22 milioni di dollari nel 2006, ha avuto bonus che hanno portato a 460 milioni di dollari quanto accumulato dal 2000, ha tre case di lusso, un ranch in Lidao, una villa in Florida e non so quante auto. John Tane, ultimo presidente numero uno di Merrill Lynch, prima della fusione con Bank of America, ha incassato 83 milioni di dollari nel 2007. Gli hanno purtroppo, ne siamo molto dispiaciuti, rifiutato un bonus da 10 milioni di euro nel 2008. E poi c'è Ken Lewis, ex numero uno di Bank of America, acquistò poi Merrill Lynch, ha venduto la casa per 3 milioni di dollari, aveva chiesto 4 milioni e mezzo, vive allegramente in diverse proprietà. Chiudo con Bob Diamond, ex numero uno di Barclays, si è dimesso nel 2012 per la manipolazione dell'indice Libor, è sostanzialmente uno degli uomini più ricchi nella finanza mondiale, si è dimesso, vabbè, ma lì per l'indice Libor o Libor, non per il crack. E questi sono solo i vertici, poi c'erano tutti centinaia di geni della finanza in gemelli e gessati che vivono allegramente bene. Allora, Sapelli, se uniamo questo al dato per cui la ricchezza che si è creata in America negli ultimi 4 anni ha fatto aumentare il reddito dell'1% degli americani più ricchi del 34% e solo dello 0,4% del 99% del resto della popolazione, che lezioni dobbiamo trarne? Dobbiamo trarre che, come si interrogava alcuni mesi sono anche la Bibbia del libero mercato, il Financial Times, dobbiamo interrogarli se non sarebbe ora di cambiare il capitalismo, cioè, perché ormai questo capitalismo non è quello classico descritto da Marx, che in fondo si generava grande plusvalore, se ne appropriavano degli industriali, anche un po' alcuni banchieri che speculavano soprattutto sulla differenza tra acquisto e vendita delle derrate cereali oppure delle commodities, il ferro eccetera. No, qui invece abbiamo creato una macchina spaventosa che è gestita da una casta, la vera casta, mentre qui abbiamo degli stupidotti che pensano che la casta siano i politici. Abbiamo creato una vera casta di tipo talmudico, no? Cioè veramente qualche sacerdoti dell'arricchimento, invisibili ma visibili, dai cui molti hanno invidia. Naturalmente quello che lei ricorda, che questa grande ricchezza corrisponde poi da parte di coloro che hanno solo le loro braccia e i loro risparmi un aumento così minimo della ricchezza, sta scavando la fossa anche di questi grandi ricchi, perché i mercati interni si stanno prosciugando e stanno diminuendo in tutto il mondo. Quindi tra un po' la crisi, la cosiddetta sovrapproduzione, che su cui hanno lavorato tutti i grandi economisti prima dell'arrivo dei nanetti di Harvard in questi ultimi anni, Bocconi's Boys, che non leggono libri ma leggono solo statistiche, e naturalmente questo sta cominciando a mettere in crisi le stesse fonti dell'accumulazione, perché vede, la speculazione non crea ricchezza, la speculazione non crea produzione. Tra un po' questi signori dovranno difendersi, vivere in queste proprietà che lei ha elencato, circondato da delle guardie del corpo, e perché saranno assediati da chi non ha nulla. Quindi il futuro, anche per quelle cose che le stavo ricordando, perché sta arrivando un nuovo tsunami di fallimento di molte banche, soprattutto di banche europee, e stanno tremando le banche tedesche, che hanno prodotto alcuni di questi antropoidi. Uno è stato, c'è sempre sulle pagine dei giornali, che era il vecchio capo di Deutsche Bank, adesso ha provocato delle conseguenze spaventose in una compagnia di assicurazione in cui, guarda caso, dei manager si sono suicidati, le famiglie l'hanno denunciato perché pare che questi suicidi derivano anche dal fatto che lui preme troppo sulle persone, perché deve guadagnare molto. Quindi siamo davanti a un capitalismo nichilista e distruttore quale mai avevamo visto prima. Quindi il bello o il brutto, dobbiamo vederlo. Se poi arriva Summers, siamo a posto. Vabbè, io e lei soprattutto con la puntata che abbiamo fatto. Sapelli, io la ringrazio per questa botta di ottimismo che mi aiuta nel chiudere la puntata del venerdì. Voli via, speravo che almeno l'estate l'avesse fatta un po' così, vedere le cose più rose, ma non è. Così non è. Grazie a Giulio Sapelli, grazie da Sebastiano Brigioni e voi in ascolto. Volevo fargli anche sì le domande sulla situazione politica italiana, ogni tanto vogliamo un po' più alto, poi faremo le domande a Sapelli nelle prossime volte anche sulla situazione politica, economica italiana, la capacità di Letta o no di fare le riforme. Per ora, ripeto, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, noi ci risentiamo lunedì. A tutti voi, soprattutto a quelli che lavorano, l'augurio di un buon fine settimana. Radio 24, la passione si sente.